Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Io sono 30 anni e mi alzo alle 4 e mezza, ma mica da rompere coglione la gente come voi, eh. Fatto bene ad andarsene, perché nel momento in cui ha detto voglio tornare con Berlusconi è evidente che non poteva stare con Gentiloni. È uno di quelli per cui le idee sono più importanti delle poltrone, che non quelli che stanno lì con i piedi in due staffe che cercano di vedere come conservarsi la poltrona aggrappata sperando di avere un altro giro per i prossimi 5 anni. Se si è dimesso vuol dire che continua il mercato delle poltrone, delle campagne acquisti in Parlamento, si somma agli oltre 300 parlamentari che hanno cambiato casacca in questa legislatura. Probabilmente assisteremo ad un ulteriore cambio di casacca. Diciamo che sto valutando il mio futuro e ho tre soluzioni: o faccio l'imprenditore e basta, però la passione è troppo forte, oppure c'è Forza Italia. La terza possibilità è che ci sono dei giovani che magari anche un po' così, un po' irruenti, però hanno fatto tanto bene per il paese. Quindi la pensione? No, sto parlando di Renzi. Ah, addirittura. Speriamo di andare a votare il prima possibile, speriamo nella prossima legislatura di fare una legge che abolisca l'assenza di obbligo di mandato, come abbiamo detto più volte. Avete capito? Avete capito? È un gran via vai la transumanza. Addirittura Di Maio vuole abolire il vincolo di mandato, non l'obbligo di mandato, il vincolo di mandato. E per evitare i casi, ultimo quello del ministro Costa, che si è dimesso, è parlamentare, era alfaniano, adesso è un parlamentare semplice, credo nel gruppo misto, poi tornerà con Berlusconi. Quanti ne vedremo negli ultimi mesi? Siamo già oltre 500, non 300 come ha detto Di Maio, oltre 500 che hanno cambiato casacca dall'inizio della legislatura, eh? E non è finita qui, non è finita qui, signori, non è finita qui. Le 6:32 minuti, mancano ancora 6 sveglie all'alba. Per quel che mi riguarda, e forse anche per Lorenzo Nespoli, poi saranno vacanze. Per Peter Bescapè una settimana in più, eh? Ricordate, a lui settimana aggiuntiva. Mentre, signori, ricordate che a Cerenova, caro Lorenzo, scusa per favore, vai al computer, Cerenova ci sono 18 gradi e mezzo. Cerenova. Poi Roma. A Morciano di Romagna, però dovresti controllarmi per favore, Morciano di Romagna è in Romagna, 23 gradi, però la provincia, importante, le province sono fondamentali, insomma, non è che possiamo dimenticare la provincia, eh? Rimini, a Milano Quartoggiaro 23 gradi, quartiere di Milano, eh? A Fiumicino 18 gradi, signori. A 26 gradi. A Columbus, Ohio, da dove ci ascolta sempre Matteo, in diretta a 26 gradi. Columbus, Ohio. mentre a Modena ci sono 21 gradi, ci fa sapere Michele. Signori, e poi a Nonantola, credo Modena, Nonantola, 23 gradi. A Remedello, Brescia, 23 gradi. Signori, sulle note del orribile inno dell'Arezzo, non orribile, l'Arezzo, grande stima per l'Arezzo, eccolo qua, l'ultimo dei Volta Gabbana, il nostro onorevole Maurizio Bianconi, l'ultimo che cambia casacca. Bianconi, ciao, buongiorno, avvocato. Buongiorno, certo. Se lei mi sveglia la mattina per trattarmi male, io punto sul telefono, mi cavo dalle scatole e torno a dormire. No, stiamo facendo. No, ma è una battutaccia, dai, com'è? Acciaccia. Vabbè, insomma. Allora, vabbè, adesso ci spiega tutto. Ci spiega tutto l'onorevole Bianconi, che non è più direzione Italia. Ieri ho letto il comunicato ufficiale con cui abbandona direzione Italia. Attualmente nel misto, dunque, no? Gruppo misto. Sì, anche prima ero nel misto, perché direzione Italia è una componente del misto. Sì, non avevate il gruppo. Vabbè, però. No, va bene, sì, da un punto di vista sostanziale è così. Non è più. Di Maio compie un errore fondamentale. Aspetta, adesso ce lo dice. Prima voglio presentare la nostra Luisella Costamagna, che finalmente qui... la mitica Costamagna. Costamagni Fallineri. Puoi far nero anche l'onorevole Bianconi, che ha cambiato partito. Che direzione va? Perché direzione Italia, non lo so. Direzione poltrona. Ecco. Eccolo lì, ecco. Mamma mia. Fa parte del giornalismo. D'assalto. Sì, bella donna, ma vabbè, un po' cattiva. Un po' cattiva, no. No, con quel sorriso affilato. No, non è cattiva. Non è cattiva. Fa anche il mio. Ognuno fa. Ognuno fa il suo. Per ricambiare i complimenti. Allora, no, perché io sono brutto. Brutto. No. Vabbè, dai, apriamo il Parlamento, perché Bianconi, ragazzi, qual è il problema? Allora, Di Maio, hai sentito, Di Maio vuole proprio una legge per abolire questo vincolo di mandato. Basta questi cambi di casacca in corsa. Di Maio è secondo me il primo errore di Grillo. Di Maio è inadeguato, anche se ha un buon aplomb, e devo dire non dirige male i lavori della Camera. Però mi pare che gli manchi il nocciolo del leader, ecco, diciamo così, è sotto il vestito niente, ecco, sotto certi problemi. Sotto il vestito niente, perché dice delle cose che non stanno né in cielo né in terra, come abolire in una democrazia parlamentare il vincolo di mandato e abolire la democrazia parlamentare. Questo è il primo dato che però non mi riguarda, anche se la gente questo lo capisce con difficoltà. Sì, sì. Il problema non è, per il mio caso, se io ho cambiato. Il problema è che io ho una impostazione culturale e politica che mi faceva stare in un determinato partito che diceva determinate cose e faceva determinate cose e prometteva determinate cose. Io sono sempre lì a dire, promettere e assicurarmi determinate cose, cioè no al centro-sinistra, no all'accordo con Renzi. E che è successo? Sono cambiate queste cose? Sono cambiate perché noi avevamo lo scopo di sostituire Forza Italia, non di fare l'aggregazione e andare insieme a Idea, al Tosi, a quello, a quella. Io non avevo incominciato questa cosa per fare un cespuglino a cercare il posto. Mm-hmm. Io avevo incominciato questa cosa con determinazione per fare un contenitore di centrodestra che non equivocasse la coalizione. Vabbè, insomma, ma questa è la motivazione politica, no? È la verità, questa è la motivazione politica. È la motivazione che ti ha portato Non intendo essere, diciamo così, portato in giro come potenzialità di prossima elezione, la quale non mi interessa proprio un cavolo, rispetto a un progetto politico che per me è convincente. Io ritengo che la destra sovranista non abbia le carte da sé sola per poter fare quello che vorrebbe fare. e che c'è in Italia una larga maggioranza di centrodestra, sì, molto conservatrice, sì, ma molto avversaria del mondo della finanza, del mondo berlusconiano, eccetera. E questo va bene, ho capito. E io volevo fare questo. E quello, ripeto, questo è il motivo. È il motivo. E questo è il motivo per cui sono rimasto nello stesso posto. Quindi Di Maio dovrebbe fare un altro provvedimento, che i partiti che promettono certe cose e non le mantengono se ne vanno, devono via, essere buttati fuori dal Parlamento. Ah, ecco, sono i partiti, capito Luisella, sono i partiti che cambiano, noi parlamentari che rimangono coerenti. Non può prendere i voti del centrodestra. Ah, no, ma è chiarissimo. Aspetta Maurizio, sentiamo un po', capito? Scusami. Luisella, no, mi sono sei scaldato. Nella mia vita ho fatto una cosa, è stata la coerenza. Sono stati gli altri che hanno cambiato il posto. Io no. Capito? Cioè, lui dice: gli altri, i partiti cambiano, non io, non le mie idee. No, ma infatti lui è stato coerente passando da, vedo adesso, Movimento Sociale Italiano è Unione dei Cittadini, Alleanza Nazionale, Popolo della Libertà, poi Indipendente, Conservatori e Riformisti, Direzione Italia, cerca la sua direzione, come dicevo prima. Io vorrei che gli altri prendessero la mia direzione, l'unico è quella di Cioè è un po' così. Caso, a ridosso delle elezioni, dopo che si è visto che Berlusconi, insomma, era più che vitale dopo le ultime elezioni comunali, come Enrico Costa che molla il governo. E no, come Enrico Costa? No, cioè, non te la permetto mica io. Mica puoi paragonarlo, mica puoi paragonarlo a un Enrico Costa qualsiasi, no? Cioè, ma come cazzo qua? Io sono nemico di questo No? Del vado e ti porta un'altra poltrona che scopriamo, conosciamo tutta una serie di persone, non sulla base di quello che hanno fatto magari all'inizio di questa legislatura o da prima, ma le conosciamo solo ed esclusivamente perché se ne vanno e quindi conosciamo meglio l'onorevole Bianconi, come conosciamo un ministro per gli affari regionali che sfuggiva ai radar fino a ieri quando si è dimesso, e quindi io sono assolutamente d'accordo invece con Di Maio e con quello che riguarda senza vincolo la democrazia. Capito, anche non ti piace, sei molto brutale per quanto riguarda la democrazia. Non ti piace la democrazia. Sei un cocktail di frasi fatte e di luoghi comuni. Eccolo. Mi piace. Eccolo. Perché poi dice le cazzate epocali, ma ti vergogni. Io penso che il tuo mestiere di cazzate epocali continua. Io non sono Costa. Maurizio, non è che ti ha detto che vuoi andare da Berlusconi, lo sappiamo che non sei, ma il principio, cioè che a ridosso delle elezioni ci sono questi movimenti. Ma io a ridosso delle elezioni faccio questo proprio per impedire che si confonda con chi vuole tornare con Berlusconi. Ma l'avete capita o no? Non vuole tornare con Berlusconi. No, questo nel gruppo misto alle prossime elezioni con chi io sono anni che dico che ho finito. Ha finito, non si candida più. Ma questo l'ho detto fin da 2 anni fa. Porca, quando è finito il PDL, per me è la potremo politica, trovarci la prossima primavera, quando ci sono le elezioni, poi chissà. Siamo sicuri che lei non tornerà in Parlamento. No, e con chi si va in Parlamento? Con le ruote, con la caviola. Ma chi lo candida? Ma chi mi candida? I coglioni, quindi non mi candida nessuno. Ma è tanto semplice. E l'ha scoperto adesso. E lei ha scoperto adesso perché te non mi leggi, non mi stai a sentire, perché sono, secondo te, sono un testa di cazzo. E invece io guardo te di leggo. Questo, ma lui è Luisella, adesso da 57 anni non sai un cazzo. Luisella, adesso lo faccio arrabbiare veramente. È che lui è toscanaccio, è toscanaccio e fumantino, è come Renzi. E quindi capisci? Siamo toscani, siamo per le bucate, io no. Vabbè. No, okay. Però mantenga un linguaggio onorevole. Per questo è impossibile. Però Maurizio, aspetta. È una convenzione del potere. Vabbè, Maurizio, adesso fai dire 2 cose a Luisella, però senza interrompere. Dice cazzate, sono le sue opinioni. Dai, su. Allora, Luisella, finisce. Tu sei per togliere il vincolo di mandato, non è un attacco alla democrazia questo. Di fronte a questi continui cambi di casacca, perché è un dato di fatto, cioè io ti voto con un mandato e questo mandato poi a un certo punto non esiste più, o perlomeno ti voto all'interno di un partito, ti trovo in maggioranza, ti trovo all'opposizione, non so più, veramente è una ricerca, cerca l'onorevole che hai votato, e quindi sono assolutamente d'accordo, quelle tutele di democrazia sono le tutele di democrazia dei cittadini rispetto ai propri rappresentanti, che fanno come cavolo gli pare in Parlamento, appunto, a preoccuparsi molto di più di dove stare piuttosto di che cosa fare. Mi sembra che abbiamo un po' di problemi, adesso c'è un fuggi generale dai partiti, guarda caso a ridosso delle elezioni. Poi io mi auguro che tu, Milan, seguirai attentamente le vicissitudini di Bianconi, per cui a ridosso delle elezioni controllerai se si candiderà o meno. Prendiamo per buono il fatto che non si candiderà, e quindi questo è un rigurgito, un rutto di dignità per concludere la sua carriera parlamentare nel partito, nel gruppo che è più consono a se stesso. E quindi, ma sì, che lo seguirò, ma lo chiamiamo tutte le settimane, figurarsi se Maurizio non lo seguirà. Vabbè, non si chiama, non si candida, ma non si candida. Se dice che non si candida, non si candida. Mano sul fuoco, non lo so, Bianconi, non è che poi dopo ti candidi. Senti, può succedere tutto, può anche che diventi omosessuale a 70 anni, oppure che mi ritornino rigurgiti e rutti di desiderio sessuale. Può darsi che il mio rigurgito e rutto di dignità smetta di leggere la Costa Magna. Può darci che non legga neanche più il fatto che per l'appunto è il giornale che mi piace di più. Però voglio dire, sono proprio questi luoghi comuni, secondo me, che danno la possibilità alla gente di smettere di fare la politica. Cioè, nessuno gli viene il dubbio che in Italia ci sono due grandi problemi che nessuno evidentemente capisce, e che i principali protagonisti della destra e della sinistra hanno rispettivamente tradito i propri elettori. Perché Renzi ha buttato fuori la sinistra tradizionale dal PD e Berlusconi sta sfruttando la destra per accordarsi con la sinistra. Questo è il grosso equivoco della politica nazionale. E Bianconi in mezzo che fa? È disorientato. Questo è il punto. Io sono l'unico che ha votato contro insieme alla Mussolini al governo Monti là. Io sono in opposizione a questo avvicinamento degli interessi Mediaset, agli interessi di Renzi, del Giglio Magico e della sinistra. E tutte e due sono tenuti dall'Europa che li vuole in... Luisella, la verità è che Bianconi da un anno ci racconta, per esempio, che c'è l'inciucio Renzi Berlusconi. Se tu lo seguissi, guarda che lo troveresti anche giusto in alcune molto cose. Molto interessante. Dovrebbe essere un partito per ogni onorevole a questo punto. Perché anche un giornale per ogni giornalista. Vabbè, dai, voglio dire. Legga il mio blog, legga quei 30 articoli che ci sono, che ho cominciato da un mese, e si accorgerà chi sono io. Legga la mia biografia, il fatto di essere uno che cambia perché vuole essere eletto è come se tu dicessi che io ho rubato 1 miliardo. È l'accusa più grave, come se fosse niente. Ma te non sei mica degna di stare al mondo quando puoi mica tenere una penna in mano senza rispettare la gente. Ma dai, adesso non esageriamo. No, ma io su queste cose mi offendo veramente. Sì, lo so, è così. Io infatti ho detto della coerenza la mia vita. Fatto detto, insulti non mi offendo. No, ma vabbè, dai, ma non siamo qui per insultarci. Andiamo un attimo al traffico, Il traffico ci salva. Il primo premio va al traffico, con il pelo lungo e le corna belle. Monge, crocchette super premium per cani e gatti con carne fresca e pochi cereali. Vi presenta... Oh Milan, non c'è niente da fare. Noi italiani siamo malati di pidiotismo. Qualsiasi cosa il PD mette in campo per distrarci, noi come dei pirla ci caschiamo. Io penso che fino a che questi signori dal governo prendono soldi per ogni migrante che si tengono in casa, continueranno a tenerseli in casa il più a lungo possibile, perché sono una fonte di reddito eccezionale. Milan, peggio dei cattivi esempi che abbiamo dai nostri politici. Cosa c'è? Ciao Milan. Caro Milan, che abbiamo sentito parlare di dogana sin da quando mi ero puteo. Ma cosa è la dogana? Una roba da mangiare? Noi col 41% siamo andati a casa. Macron col 23% fa presidente Putin per 5 anni. Non avete idea di quanto rosichi per questa cosa. Renzi, vabbè, dai, siamo con Luisella Costamagna e con Maurizio Bianconi. Gruppo misto, adesso lo presento così. Adesso ci siamo scaldate su questa cosa del vincolo di mandato, però io c'è una roba che effettivamente questa si mi fa arrabbiare sui giornali, ma io non so come... Siamo un paese in cui adesso si va a dire ma in punta di diritto è giusto tecnicamente, ma il magistrato, ma le leggi... Ma l'avete sentito quello che ha accoltellato un poliziotto in un fermo di polizia alla stazione centrale di Milano, che non si capisce se è della Guinea-Bissau, se è del Ghana, vabbè, insomma, ci sono varie versioni. Due giorni dopo è stato scarcerato. Il GIP ha detto voleva solo divincolarsi. Ma certo, ma chi non ha un coltello in tasca? Tu, Luisella, ci succede spesso, no? Giri con un coltello dicendo, tra l'altro, quando ti vieni fermata voglio morire per Allah, e ti volevi divincolare, no? Quante volte ti è capitato in vita tua? No, non mi è capitato. Sono vicende vergognose al pari, però francamente oggi del risentire nuove risate sul terremoto pure di Amatrice, un altro imprenditore intercettato, nuovo terremoto, nuovi guadagni, dice, siamo un paese irrecuperabile. Non lo so se siamo irrecuperabile, però, cioè, voglio dire, come fare a giustificare una cosa del genere? Poi in punta di diritto si giustifica tutto. Bisogna conoscere bene la vicenda. La vicenda è stato espulso due volte. Questo sempre il giudizio, nel senso che bisogna vedere davvero come è andata, qual è la dinamica. Capito, e ma tutto. Guarda, io su queste cose, cioè, sono giustizialista, ma sono i veri garantisti, forse quelli che credono che, insomma, bisogna conoscere meglio le vicende giudiziarie. Io su queste cose, ma la gente un po' si è anche stancata, sì, lo ammetto, sono un po' giustizialista, cioè non se ne può più, cioè se è stato arrestato e la dinamica, adesso poi nella dinamica, se tu hai un bravo avvocato come l'avvocato Maurizio Bianconi, guarda che bell'assist, cioè puoi scarcerare anche, adesso non dico Totò, Rina, ma Rina non c'è, ma voglio dire, ma come si fa? Però hanno garantito, però oggi verrà espulso. È la terza espulsione che si becca, no? È la terza espulsione, manco Chiellini ai bei tempi. Cioè la terza espulsione che si becca, se si becca l'espulsione. E con le altre due stava qua, ad accoltellare, a girare col coltello, no? Però avvocato Bianconi, è tutto in punta di diritto, è tutto a posto, è tutto... No, non lo so questo, se è in punta di diritto o no. I giornali hanno riportato una versione dei fatti. La lettura del giudice è stata diversa. Io ho capito, io quello che trovo veramente singolare è che uno che chiaramente si sottrae ai dispositivi giudiziari, ai dispositivi amministrativi come l'espulsione, una volta che ce l'hai, invece di pigliarlo, mettere un aereo e mandarlo a casa, prima lo scarci. E poi gli si andare via. No, e tra l'altro, però hanno messo una misura di sicurezza, si deve presentare tra le 8 e le 9 tutti i giorni del mattino. Sì, te lo immagini, ai carabinieri, ma si presenterà tra le 8 e le 9, firmerà, poi alle 9 e un quarto andrà in giro col coltello. Cioè, che problema c'è? Esce come Igor, no? Sì, ancora cercando. Ho capito, ma voglio dire, non solo non si presenterà, ma è, diciamo così, il simulacro di uno stato di diritto è diventato questo, perché ci sono delle questioni che sono molto importanti, come l'inefficienza totale dei provvedimenti giudiziari, sì, sì, ai quali si aggiunge un certo lassismo anche. Ah, ma per carità, ma viva, cioè io adesso dico, quando dico sono giustizialista, ovviamente che è un paradosso. No, ma, però, sì, cioè, ma come si fa a pensare che... questioni di sicurezza si lasciano in mano ai giudici. Ma guarda, uno che non certo può essere passato per giustizialista, anzi accusato di buonismo, oggi Massimo Gramellini, in prima sul Corriere della Sera, dice va bene, ci indigneremo, adesso fingeremo di indignarsi quando porterà a compimento la sua opera e prima o poi accoltellerà qualcuno che ci rimane secco. E che dobbiamo fare? E poi tutti le polemiche, ma come era possibile? Come era possibile? Così, tecnicamente, con provvedimenti dello Stato italiano. Guardi Milano, da avvocato, le posso dire che succede un brutto circuito vizioso. Se va dalla forza di sicurezza, dai carabinieri, dalla polizia, dice arrestate quello, mi hanno rubato in casa, eccetera. La risposta è ma che l'arrestiamo a fare? Tanto ce lo mettono fuori. Beh sì, ma questo è anche merito di leggi, le cosiddette svuota carceri. Se non rivisiti il senso del dovere, quel senso del dovere che non fa dire dire all'imprenditore purtroppo c'è un terremoto, ma lo fa ridere perché ci si guadagna sopra, il paese è veramente irrecuperabile, ma non il paese. Oh, vedi che andate d'accordo. Vedi una nota di accordo tra lui. Abbiamo fatto la pace tra Luisella Costamagna e Maurizio Bianconi. No, perché se mi offende non ce la faccio. L'hai offeso. Ma non possiamo fare la pace. L'hai offeso, quindi la pace no, un caffè, sì. Ma io va benissimo così, manteniamo le distanze. Mi dispiace perché è bella, ma dai, un bel caffè al cianuro. Ogni volta Milan concludi i nostri collegamenti proponendo un caffè tra me e perché? Perché stavolta Bianconi, ma io non prendo caffè, diciamo. Dai, con un po' di cicuta dentro, un goccino. Il più abile dei due infila la cicuta nella tazzina dell'altra. Vediamo chi rimarrà in piedi. Non è che poi cambierebbero le sorti del mondo. Dai, no, facciamo il premio Giachetti. Su, dai, vi voglio lasciare con un sorriso. Premio Giachetti oggi. Sì. Premio Giachetti. Senti, il premio Giachetti, sentilo qui. Avete la faccia come il culo. Potete nominare premio Giachetti, Luisella Costamagna. Chi ha secondo te la faccia, come dice Giachetti? Il premio Giachetti, insomma, puoi scegliere. Hai la faccia come... Ma no, non mi pare, io sai che sono una signora. Sei una signora, va bene. Non mi piace insultare nessuno. Allora, invece abbiamo... Posso dirlo con cognizione di causa dell'imprenditore che ride. Sua matrice. Direi di personaggi pubblici, manco sotto tortura. Non invece Bianconi è uno che non è un signore, non è una signora. Come il culo se la merita lui. Chi? Lupi. L'onorevole Lupi. Ma che ha fatto, poverino? Ha detto che non ha fatto un'alleanza politica con il PD, ma ha aiutato con il PD all'Italia a farla uscire dalla crisi, perché anche lui deve ritornare con Berlusconi e bisogna che si rifaccia la verità. E quindi Bianconi invece, vedi, non è una signora, cioè, lo dà il premio Giachetti. Va bene, dai, vi mando un abbraccio, bevete un caffè alla nostra salute e una alla prossima, ovviamente. E Aline Mila e lì gestisce una lancia notizia mia 24 mattino. Signori, sono le 7:15, siamo in diretta Radio 24, la radio più bella del mondo, e già lo sapete. Siamo qui nello spazio dedicato alla rassegna stampa di 24 mattino con Lorenzo Nespoli in redazione, il nostro Peter Bescapè in regia. Siamo pronti a scoprire quello che ci offrono i giornali. Andiamo a scoprirlo, dai! E bravo Mila, anche adesso ci legge i giornali. Allora, siamo arrivati a giovedì 20 luglio con i titoli, le aperture. Il Sole 24 Ore apre così: Sud, industria e startup trainano la lenta risalita. Questo è il titolo di prima pagina. Per il Corriere della Sera, così come altri quotidiani, ci si concentra sulla perdita di un pezzo nel governo, e cioè la dimissione del ministro Costa, responsabile degli affari regionali. Gentiloni perde un ministro, è il titolo di apertura del Corriere della Sera. Per Repubblica, Il governo ora perde un pezzo, ma non scatta la corsa a destra. La stampa: Costa se ne va, la maggioranza perde i pezzi. Il giornale: svolta a destra, grandi manovre, il ministro Costa lascia il governo, molla Alfano e lancia una nuova federazione di centro. Poi la vicenda delle pensioni, soprattutto con le pensioni pagate all'estero, ce ne siamo occupati, ricordate, la scorsa settimana, il presidente dell'INPS Boeri, che si scaglia contro l'anomalia così definita di chi si gode la vecchiaia all'estero. Allora, la verità apre su questo. L'INPS apre la caccia ai pensionati, oppressione fiscale. Libero, soldi a chi viene, pensioni a chi va. Come fregare denaro agli italiani. Mentre il Messaggero torna sulla politica, fuga a destra, strappo nel governo. L'apertura del Manifesto invece la vicenda dell'Arabia Saudita, di cui siamo occupati ieri, con la protesta delle donne saudite che esplode in rete per la volontà di alcune di vestirsi in maniera libera, come decidono. In questo caso all'occidentale, ma insomma non è necessariamente obbligatorio, diciamo, l'importante è la libertà di poter decidere. L'Arabia Saudita è il titolo di apertura del Manifesto. Mentre sul Fatto Quotidiano continuano le intercettazioni, caso Consip, Lotti non è sereno, peggio di così c'è solo il mio arresto, così intercettato, racconta il Fatto Quotidiano. Voglio partire da che cosa, però? Il tema delle liberalizzazioni. Oggi la stampa si concentra sul caso della SIAE, cioè la vicenda dei diritti d'autore. Alberto Aburrà racconta pagina 5, è una novità che è in vista, una novità in arrivo. Anzi, la stampa scrive: la decisione è presa. SIAE, procedura dell'Unione Europea contro l'Italia. Bruxelles blocca il monopolio della gestione dei diritti dicendo è stata ignorata la norma sulla concorrenza. E dunque, ecco qui, la stampa pagina 5. La decisione è presa. Dopo una lunga serie di contatti col governo e la Commissione Europea, ha deciso che non si può perdere altro tempo e per questo a settembre, salvo colpi di scena, aprirà una procedura di infrazione contro l'Italia sulla gestione dei diritti d'autore. Il motivo è che, nonostante la riforma voluta dal ministro Franceschini, la liberalizzazione del settore è solo parziale per l'Unione Europea. Resta il monopolio della SIAE e la concorrenza tra i vari soggetti non è garantita. Come rivelano fonti concordanti, a Bruxelles l'orientamento non è giunto a cuor leggero, perché c'è la consapevolezza che un passaggio di questo tipo possa avere forti ripercussioni politiche a Roma, oltre ovviamente che in ambito artistico e musicale. Tutto inizia nel 2014 attraverso una direttiva, la cosiddetta direttiva Barnier. L'Europa chiede ai Paesi membri di uniformare le regole nazionali su raccolta e gestione dei diritti d'autore. L'obiettivo? Consentire agli artisti di poter scegliere a quale operatore affidare i propri interessi. In Italia la situazione è complessa per effetto della legge del 1941 che istituisce il monopolio. Il governo studia una riforma, ma intanto scoppiano le battaglie legali, perché quando spuntano i primi operatori concorrenti con l'italo-britannica Sound Reef in testa, SIAE li porta in tribunale per dissuadere artisti ed emittenti dal rivolgersi ad altri soggetti. Questi ultimi presentano esposti alla Commissione Europea e all'antitrust per denunciare l'impossibilità di operare sul mercato. Insomma, via i contenziosi giudiziari. La questione... E vedremo a settembre, anticipata dalla stampa, che ora la Commissione Europea vuole aprire una procedura di infrazione contro l'Italia, mancata liberalizzazione nel campo dei diritti d'autore. Staremo a vedere, ci sono dichiarazioni di alcuni artisti, Rovazzi, Nesli, che si sono affidati a Sound Reef e che dicono meno male, ci tenevano al guinzaglio, ora siamo liberi. E capiremo che succederà a settembre. In tutto questo l'abbiamo sentito, come dire, già le risate odiose che erano trapelate da un'intercettazione nel caso del terremoto dell'Aquila avevano fatto piombare l'orrore su quello che era il cinismo di chi sa di poter guadagnare, fare affari con la ricostruzione dopo il terremoto. Ebbene, a ogni terremoto evidentemente corrisponde la propria risata, perché nelle intercettazioni finiscono sui giornali oggi, anche per il terremoto che ha distrutto Amatrice e non solo, compare il ghigno al telefono, in questo caso dell'imprenditore Giustino, Giuseppe Giustino, 65 anni, di Altamura, presidente del CDA della società cooperativa L'Internazionale, che, intercettato nella nuova inchiesta della Procura dell'Aquila su presunte mazzette della ricostruzione pubblica dei beni monumentali, ride, così almeno nell'ordinanza il GIP scrive. Ed ecco allora: risate pensando agli affari, Amatrice come L'Aquila. Titolo di pagina 17 del Messaggero: un altro sisma da ridere, c'è da fare per Amatrice. Il presidente della COP si rallegra per i lavori di ricostruzione in arrivo. Pagina 7 del Fatto. E ancora il Corriere della Sera, Virginia Piccolillo, il capo dell'impresa edile e la risata al telefono per il terremoto di Amatrice. E che dobbiamo fare? Questo è. A proposito di soldi, come mi piace citare, vado e salto in prima pagina di Libero, perché Franco Bechis racconta dei tagli bluff alla Camera. Questo è il titolo di prima pagina. Addio tagli alla Camera, tornano le paghe d'oro. Ma come? Cioè, sembra un paese che guarda all'indietro ogni tanto, no? Si cerca di fare una cosa per andare avanti e poi ci sono dei riflessi che spingono a tornare indietro quotidianamente. E allora Franco Bechis scrive in prima pagina di Libero: c'è una piccola sorpresa nel bilancio di previsione 2017 della Camera dei Deputati, appena depositato e illustrato pure dal presidente Laura Boldrini durante la tradizionale cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare. La sorpresa è che nelle previsioni 2018 torna a aumentare la spesa del personale di circa 8 milioni di euro. Succederà perché, come è accaduto in Rai con gli artisti, alla Camera dei Deputati, lo stesso accadrà al Senato, salterà il famoso tetto massimo agli stipendi di 240.000 euro lordi. Per tutti e non solo per qualcuno, anche se all'interno del Parlamento quel principio era stato applicato assai diversamente da quel che è accaduto all'interno della pubblica amministrazione. In ogni caso, dal 1 gennaio, sia alla Camera che in Senato, tutti gli stipendi limati progressivamente a partire dal 1 gennaio 2015 torneranno allo stesso livello dell'anno precedente, facendo terminare quella dieta che ovviamente aveva causato numerosi malumori all'interno delle istituzioni. Tagli bluff alla Camera, tornano i super stipendi. Questo è il titolo di Libero. Franco Bechis in prima pagina, certo non una cosa che ci mette di buona disposizione d'animo. Come non ci mette di buona disposizione d'animo, ed è un eufemismo, la vicenda che, se si racconta dal punto di vista tecnico della giustizia, è tutta perfetta, perfettina, a norma, con codice alla mano, in punta di diritto, tutta giusta. Ma valla a spiegare a chi magari incrocerà nuovamente nei prossimi giorni a Milano o chissà dove si sposterà l'irregolare Mamadou Diallo, 31 anni, dalla Guinea-Bissau, anche se qualche giornale scrive dal Ghana, non si capisce, che è stato arrestato lunedì nel tentativo del fermo, ha accoltellato un poliziotto alla stazione centrale di Milano. E voi direte, ma com'è possibile incontrarlo? Eh sì, perché è stato scarcerato. Lui, che ha già due decreti di espulsione mai applicati, è stato scarcerato. Sì, vi vedo anche voi stupiti, vi dice, ma come? Anche il sindaco di Milano, Sala, dice, resto a bocca aperta. Sì, ma in punta di diritto è tutto giusto, tutto perfetto, tutto lineare, le leggi applicate. Tentò di accoltellare un agente, il migrante scarcerato dal giudice. La GIP, che si chiama Maria Vicidomini, che ieri ha convalidato l'arresto, negando però la custodia cautelare in carcere chiesta dal PM per tentato omicidio. Perché? Perché tale condotta, cioè l'accoltellamento, eccetera, appare frutto della concitazione del momento di Diallo che, a terra, sentendosi accerchiato dai poliziotti, ha tentato di divincolarsi e sottrarsi alla cattura, sferrando un colpo dove gli capitava. E non un colpo univocamente finalizzato a causare la morte del poliziotto. Cioè, non è che lo voleva ammazzare. Voleva tirare una coltellata per divincolarsi. E che diamine. Per cui non si travalica nel tentato omicidio prospettato dai PM. E poi per i reati di minaccia, aver brandito il coltello e porto abusivo di coltello, la legge non consente la custodia cautelare in carcere. Quindi da questo punto di vista il magistrato non può che far altro che applicare la legge. Che è ammessa invece la custodia cautelare per la resistenza pubblico ufficiale, ma la GIP non la ordina neanche qui perché ravvisa un solo atto violento, peraltro nel contesto di una colluttazione. Scrive: il colpo non ha nemmeno attinto la pelle, cioè, capito? Non ha attinto la pelle perché aveva il giubbotto antiproiettile il poliziotto, quindi manco la pelle ha preso. E è possibile ritenere che al processo verranno concesse attenuanti generiche anche in virtù della incensuratezza. Eh sì, incensurato, due volte espulso, ma incensurato. Però è stato ed è obbligato, Mamoudou Diallo è obbligato tutti i giorni a presentarsi ai carabinieri dalle 8 alle 9 di sera, tutti i giorni, lunedì, mercoledì e venerdì. Dalle 8 alle 9 di sera è dunque controllato, sempre che si presenti. Il resto della giornata può girare con un coltello d'altronde. Va bene, voi capite che tutti questi articoli che trovate sui giornali, a coltello un poliziotto clandestino già scarcerato il giorno, accoltellò agente fuori dopo due giorni, è scontro sulla decisione del GIP, su Repubblica, una pagina. Sono tutti gli articoli che mi fanno più sare della giornata. A questo è dedicato anche il caffè di Massimo Gramellini, perché già sento qualcuno dire: ah, mi scriverà sicuramente qualche magistrato, lo so, arrabbiato, dicendo se la prende con i magistrati, ma i magistrati applicano solo la legge. Lo so, applicate solo la legge, per carità. Insomma, il PM aveva chiesto l'arresto, è un magistrato pure lui, ma c'è un giudice, per carità, c'è un giudice. Però ecco, leggo il caffè di Massimo Gramellini. Massimo Gramellini non credo che sia tacciabile per essere un giustizialista di quelli che vuole tutti nelle patrie galere appena compiono un minimo errore. Coltello libero. Migrante della Guinea in fuga dalla guerra civile e scampato a un naufragio. Ce n'è abbastanza per inzuppare i fazzoletti e accogliere la sua richiesta di asilo politico. Ma Saidu Momodu Diallo è un balordo. Viene alle mani con chi lo ospita e comincia a ciondolare tra stazioni e treni su cui sale senza pagare il biglietto. Quando minaccia con un coltello chi glielo fa notare, viene arrestato e scarcerato in giornata. A dicembre arriva il decreto di espulsione e a luglio di quest'anno un altro, a riprova che il primo era carta straccia. Lo è anche il secondo, perché lunedì scorso Diallo si aggira sul piazzale della centrale di Milano provocando i conduttori di autobus con il solito coltello che pochi minuti dopo pianterà nella spalla dell'agente scelto Luca Barillani. Catturato da inescandescenze, voglio morire per Allah! Ma il giudice derubrica l'accusa da tentato omicidio a resistenza pubblico ufficiale e le rivendicazioni islamiste a sceneggiata di uno psicolabile. Infatti i terroristi sono notoriamente dei riflessivi. Morale: il doppiamente espulso e doppiamente arrestato viene rimesso in libertà. La legge è stata rispettata. Quanto all'intelligenza, è pregata di ripassare. Se quest'uomo è socialmente pericoloso, come si fa a tenerlo fuori? Di fronte a un migrante allo sbando ci sono solo due reazioni possibili. Quella di sinistra è occuparsi di lui. Quella di destra, rispedirlo a casa. Ma qui si è scelta la terza opzione, ignorarlo. Pronti però a indignarsi appena il coltello avrà completato il suo corso. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alino, la rassegna stampa logora chi non ce l'ha. Ciao caro. presidente, presidente emerito, presidente eterno, mi inchino. Allora, signori, qui c'è un caso politico che viene trattato da tutti i giornali e che sono le dimissioni del ministro degli affari regionali Enrico Costa. Tutti i quotidiani aprono su questo. Tra l'altro Enrico Costa, 47 anni, rilascia 3 interviste, almeno ne trovate una sulla Stampa, una sul Corriere della Sera, una sul Messaggero. Non potevo tenere i piedi in due scarpe, Silvio e Matteo sono fatti per stare dalla stessa parte. Questo è il titolo dell'intervista di Tommaso Labate a pagina 2 del Corriere della Sera. Enrico Costa, che si era detto probabilmente si metterà da ministro, e così ha fatto, perché lascia Alfano e si avvicina a Berlusconi. Questa è l'estrema sintesi politica. In queste interviste dice: beh, continuerà ora a votare la fiducia al governo Gentiloni, perché torna a essere banalmente con rispetto un parlamentare. Se mette la fiducia sullo Ius Soli, ovviamente voto no. Ora sono un deputato semplice e valuterò provvedimento per provvedimento. Sullo Ius Soli non ho lasciato per questo, anzi Gentiloni ha dimostrato molta sensibilità per le mie posizioni. Alfano invece non l'ha presa bene, ministro o ex ministro. Capisco il suo malumore, ma è una persona per bene, non parlerò mai male di lui. Torna da Berlusconi? Ho parlato e mi sono confrontato con Berlusconi. C'è un fatto nuovo: la possibilità di riuscire a ricompattare il centrodestra attorno alle ricette liberali. E a essere sincero, con Berlusconi non ho mai interrotto le comunicazioni, neanche nei momenti più duri del rapporto tra il nuovo centrodestra e Forza Italia. E Gentiloni ci è rimasto male? No, ha apprezzato il mio senso di responsabilità. Con me dentro, ovviamente, ci sarebbero state maggiori fibrillazioni nel governo. E in effetti la lettura politica che danno tutti, rimango sul Corriere della Sera, per esempio, Francesco Verderami a pagina 3, il retroscena è questo: ora Gentiloni tornano i conti, cioè via il ministro Costa, nessuna crisi, andiamo avanti. A Gentiloni i conti tornano, scrive Verderami, ora che Costa si è dimesso dal governo, perché il caso dell'ormai ex ministro centrista è davvero una storia di conti da saldare, di osti che stanno attenti a non farsi sfuggire i centesimi. E non c'è dubbio che il premier abbia vigilato sulle manovre di Renzi e Berlusconi, di cui deve aver scorto le manine dietro il crescendo polemico del titolare alle regioni nell'ultima settimana. E allora, altro che minacciare la fiducia sullo Ius Soli, martedì scorso il Presidente del Consiglio, con un lessico d'altri tempi, ha esortato il capo di AP Alfano a disinnescare subito una mina che sarebbe dovuta brillare dopo la pausa estiva. Le dimissioni di Costa regolano il conto, perciò oltre le formalità e le polemiche di rito, ieri sera il Premier è parso molto sollevato. Diceva ai suoi gentiloni: nessuna crisi, andiamo avanti. La maggioranza per arrivare alla fine della legislatura c'è. Semmai, scrive Verderami, la preoccupazione e il prossimo scoglio è la stabilità. Padoan avverte: rispetterò i margini dell'Unione Europea. Non metterà la firma sotto un conto che non lo convincesse, il conto pubblico, ed è un messaggio che condisce così Padoan con questo messaggio. Chi pensa di fare come nel film di Totò, quello in cui lui porta il cappotto al Monte dei Pegni e poi con quei soldi organizza un banchetto, sbaglia. Questo è il messaggio di Padoan: non possiamo fare come Totò, che porta il cappotto al Banco dei Pegni e con i soldi organizza un banchetto. Questo per dire, chi vuole pensare di sforare i parametri o comunque andare al 2,9%, il messaggio del ministro del Tesoro. Comunque tutti i giornali raccontano del ministro Costa che lascia, anche sul Messaggero Gentiloni: meglio così, ora più coesi e più forti, ora strada libera per lo Ius Soli. Perché? Perché appunto si è perso un pezzo di governo che era contrario allo Ius Soli. In tutto questo non esulta Alfano, che vede pezzi che si avvicinano a Berlusconi. Non l'ha presa benissimo, con un eufemismo, come scrive il Corriere della Sera: credevo che Costa lo facesse già un po' di tempo fa, sono un gesto inevitabile e tardivo queste dimissioni. Comunque, politica, riposizionamenti, oggi è pieno ancora, soprattutto alla luce delle dimissioni del ministro Costa, di strategie, di riposizionamenti, di chi va a destra, di chi vuol ricostituire il centro, di chi si avvicina a Berlusconi dopo averlo abbandonato. Ah, quelle cose che vi appassionano certamente poco prima di entrare nei vostri posti di lavoro. Lo so che siete fatti così, vi volete un pochino del male. Allora, in tutto questo, il Fatto Quotidiano invece intervista due pagine Pierluigi Bersani, pagina 4 e 5, Ettore Boffano e Fabrizio D'Esposito, come hanno fatto un'intervista a Massimo D'Alema qualche giorno fa di due pagine sul Fatto Quotidiano, stessa questione, due pagine intervista Pierluigi Bersani. Renzi, Lotti e Boschi fregati dalla loro questione morale. Così Bersani, che parla all'inizio di Pisapia e dice non ha l'idea di una leadership come l'abbiamo intesa negli ultimi 20 anni, perché la gente ne ha le scatole piene di quella roba lì e ci vuole umiltà. E su questo sono d'accordo con lui. Noi siamo una squadra, noi di MDP. Poi, quando si parla di flessibilità dei conti, Bersani dice... Leggo che è la prossima ricetta per la crescita, sforare il deficit, promettere meno tasse a tutti, più crescita, meno debito. Ve la traduco se volete in tre lingue questa vicenda, addirittura in tre lingue. Ma certo, in inglese è win, win, win, in italiano godimento cosmico. E poi c'è la metafora mia, il maiale è tutto di prosciutti. Ecco, sapete che Bersani non si può mai negare una metafora. Poi però arriva il colpo duro, la stoccata di Bersani su Renzi. La vicenda è quella del giglio magico, le banche, Lotti, Tiziano Renzi, l'inchiesta Consip. Banca Etruria, in Parlamento non c'è stata detta la verità, dice Bersani. Maria Elena Boschi negli Stati Uniti sarebbe sanzionabile. Qui non stiamo parlando di noccioline, ma di fatti seri. Meno male che Andreatta non è più in vita, lui che lottò contro Calvi avrebbe dovuto vedere gente, e si riferisce al papà della Boschi, che va a chiedere consigli a Flavio Carboni. Se Renzi non piace più, è stato anche per l'aspetto etico, ma ampliando lo sguardo oltre le persone siamo di fronte a una situazione inquietante. Non accuso nessuno di collusione, ma qui girano barcate di soldi senza controllo, acquisti dall'estero, amnistie, sanatorie, hanno aumentato pure la soglia del contante. Sono comodità per pezzi di establishment, ma anche varchi per la criminalità e le mafie. E quello che dice Bersani è molto duro. E poi la domanda classica: ma lei si ricandiderà? Farò quello che mi chiede il collettivo. Pierluigi Bersani intervistato dal Fatto Quotidiano. In tutto questo, a proposito di politica, c'è una notizia che qualcuno potrà dire adesso: ah, ma questa è proprio da carta costa. Però, se volete, c'è una pagina della Stampa che racconta che il regista Paolo Sorrentino si è incontrato con Veronica Lario, l'ex moglie di Berlusconi, perché Paolo Sorrentino, forse lo sapete, sta mettendo a punto un film dal titolo Loro, è un affresco dedicato a Berlusconi, al leader di Forza Italia, che verrà interpretato da Tony Servillo, e Elena Sofia Ricci invece molto probabilmente interpreterà Veronica Lario. E Sorrentino, Paolo Sorrentino, regista, ha voluto incontrare Veronica Lario perché voleva così in qualche modo entrare nel personaggio, avere questo faccia a faccia. Fulvia Caprara racconta e svela questo particolare a pagina 4 della Stampa. Per Veronica Lario forse è stato un colpo al cuore, un rinnovo di sofferenza, forse solo una gran soddisfazione ritrovarsi nel grande schermo in Loro, questo affresco di Paolo Sorrentino, che ha voluto incontrarla. Il faccia a faccia c'è stato e ha dato i suoi frutti, scambi di idee, forse racconti, soprattutto il giudizio positivo sul nome dell'attrice Elena Sofia Ricci, che dovrebbe interpretare Veronica Lario sul grande schermo. E vabbè, anche questa in Italia è politica. Caro Mauro Meazza, come stai, signori? Ma molto bene, caro Alessandro. Chi ha comprato, grazie, l'Inter? È da un po' che non ti prendo in giro. Stiamo valutando. Non bisogna essere precipitosi, già te lo dissi ieri. Voi valutate, noi compriamo, voi valutate, valutate. Ecco, l'importante è che poi qualcuno paghi, mi sembra di capire, però sì, vabbè, adesso non mi voglio intromettere nei conti altrui. Sei proprio veramente un pignolo. Invece, scusa, hai il diario? Hai il diario? Per segnare, sì, però con la matita stavolta, no? Non con la rossa. Penna. Eccola qua. O una matita o qualsiasi, un lapis, ecco, quello pronto, che vuoi. Pronto. No, ecco, perché volevo dirti, si profila una proroga per i versamenti delle imposte e anche per l'invio del 770 e del modello redditi, una volta lo chiamavamo unico, quest'anno lo chiamiamo redditi. Però non è ancora deciso. Ah, e allora? Segna matita, segna matita. Intanto vai sulle pagine norme e tributi, leggi Marco Mobili, Giovanni Parente, ti danno tutte le anticipazioni. Però scrivilo a matita, per favore, perché non è ancora deciso, va bene? Poi ti tengo invece aggiornato, di volta in volta, di mattina in mattina ti aggiorno su questa cosa qua, ti dico quando puoi scriverlo a penna. Oh, però oggi mi viene molto da parlare di immobili, di case. Come mai? Hai comprato il tuo castello? Beh, no, in realtà potrebbero avermelo donato, ma invece così non è accaduto, in me, perché ad esempio se leggi Casa 24, oggi essendo giovedì, sul Sole 24 ore ci sono le pagine di Casa 24, da cui si apprende che la percentuale di case donate in Italia non è irrilevante, molto si fa, come sai, per motivi fiscali, ma anche proprio per una scelta familiare. C'è tutta una tabella che mostra a che età più o meno si dona e a quale età più o meno si riceve il dono. Il 15% del mercato è fatto da case donate, ma poi ti inviterei a leggere e meditare anche quanto scrive Moria Longo in pagina 2 invece sugli NPL, crediti deteriorati, fatti da immobili, cioè fatti da con case sottostanti, perché lì scrive, sintetizziamo nel titolo, si rischia di perderci 63 miliardi rispetto a quanto iscritto in bilancio. Tu quanto puoi mettere? 63 miliardi? Ma i soliti 2 euro, è inutile che ci giriamo attorno. Ma poi mi viene anche da ricordarti che parliamo, pur non essendo martedì, bensì giovedì, parliamo anche del terrazzo del condominio, perché gli scarichi del terrazzo, tu hai un terrazzo? No, te l'ho chiesto, sempre un balconcino. Ma non cambi mai casa, ma prenditi una casa con terrazzo, insomma, vabbè. Il terrazzo, gli scarichi del terrazzo, ci deve pensare un po' tutto il condominio, non è che ne usufruisce solo il titolare, colui che usa il terrazzo, vabbè. Per tutti i professionisti abbiamo il riepilogo dei contributi da versare alle casse di previdenza, c'è una grande tabella nelle pagine di norme e tributi, e poi ti voglio ricordare, sabato mattina alle 9 che fai? Ah, ascolto il Serpente Corallo. Bravo, sei un bugiardo nuova fantastico. Nuova trasmissione su Radio 24 con Mauro Meazza, signori. Il Serpente Corallo. Ecco, è fantastico, voglio ringraziare Peter, il caffè pagato subito non appena sarò in redazione, il caffè pagato per tutti quanti, anche per Lorenzo Nespoli. Oh. E a questo punto, allora, se non vuoi proprio svegliarti alle 9, c'è anche il podcast, come sai, su www.radio24.it. Che altro posso dirti, caro Alessandro? Non lo so, vedi tu. Traffico! Monge, crocchette super premium per cani e gatti con carne fresca e pochi cereali. Vi presenta... Alessandro Milan, il ciccio bello dell'informazione. Forse meglio solo ciccio. Vabbè, dai. Ci accontentiamo, caro ascoltatore. Vi ringrazio. Mandate sempre le vostre sigle al 349-238-6666. Via WhatsApp, via audio, questo era il telefono. Magari in audio, via WhatsApp, vengono di qualità migliore. Allora, c'è il presidente dell'INPS. Io non so se voi vi ricordate, ma settimana scorsa, qualche giorno fa, una decina di giorni fa, dai, più o meno, con Oscar Giannino ci siamo occupati anche della vicenda dei pensionati italiani che una volta che ricevono la pensione se ne vanno all'estero, soprattutto in quei paesi. Una delle mete più gettonate ultimamente è il Portogallo, perché il Portogallo garantisce a chi ha la pensione e va lì 10 anni di totale defiscalizzazione, cioè per 10 anni il Portogallo non chiede un solo centesimo di tasse sulla pensione. E sono accordi tra vari paesi e che poi i paesi che fanno accordi implementano nel proprio territorio come ritengono. Il Portogallo per questo è un'attrattiva fiscale enorme per i pensionati italiani, ma c'è anche la Romania, la Bulgaria, la Tunisia, eccetera. Tutto legale, tutto consentito, ma ieri il presidente dell'INPS, Tito Boeri, ha messo alcune cifre e ha definito una serie di anomalie, così le ha definite. Per le pensioni all'estero, racconta Paolo Baroni sulla Stampa, pagina 8, l'INPS spende ogni anno oltre 1 miliardo di euro. A giugno sono stati 355.835 gli assegni pagati in 160 differenti paesi a cittadini italiani. Concentrati soprattutto in Europa, sono 179.636. Il presidente dell'INPS ha fatto questo punto della situazione in un'audizione alla Camera di fronte alla Commissione Permanente sugli Italiani nel Mondo e ha segnalato appunto quelle che ha definito anomalie, a partire dal fatto che più di un terzo delle pensioni estere ha periodi di contribuzione versati in Italia inferiore ai 3 anni. E quindi non si riferisce in questo caso ai pensionati che hanno versato contributi per tutta la vita. Il 70% resta sotto ai 6 anni e circa l'83% ne ha meno di 10. Dunque ci sono pensioni versate all'estero a fronte di contributi inferiori a 3 anni. Un po' un vitalizio dei parlamentari, possiamo chiamarlo così. Non solo, ma a fronte di durate contributive così basse, i beneficiari possono accedere a prestazioni assistenziali quali l'integrazione al minimo, la 14ª. Ovviamente è riesploso il tema, nel senso che ecco qui Valentina Conte su Repubblica: a Porto e Lisbona, dunque in Portogallo, ma anche in Romania o in Costa Rica, 1 miliardo l'anno per i pensionati all'estero. La Verità lo mette come titolo di prima pagina. L'INPS apre la caccia ai pensionati. C'è l'editoriale di Maurizio Belpietro, che tra l'altro se la prende con il presidente Boeri. Dice: qual è il compito del presidente di un ente previdenziale che deve erogare ogni mese milioni di trattamenti pensionistici? Ho sempre ritenuto che chi sta al vertice di un simile colosso si debba preoccupare di investire oculatamente i soldi di chi versa i contributi. Tuttavia, se questa è la funzione richiesta al numero uno dell'INPS, si può dire senza tema di essere smentiti che il professor Boeri sembra invece pensare ad altro. E Maurizio Belpietro dice forse pensa anche lui a una candidatura in qualche modo. Comunque il tema delle pensioni all'estero ritorna sui giornali. A proposito di pensioni, ma questo è un pensionato di altro tipo, è l'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, c'è sul giornale una polemica definita l'Italia degli sprechi, perché Massimiliano Scafi a pagina 10 dedica una pagina al fatto che Giorgio Napolitano e la moglie sono in vacanza sulle Dolomiti con un viaggio su un aereo militare e 11 agenti a proteggerlo. Questo è definito uno spreco dal giornale Volo Blu e Super Scorta, le ferie d'oro di Re Giorgio. Questo a pagina 10 del giornale. Ieri invece la strage di Via D'Amelio, la ricorrenza ovviamente il 25ennale, con le polemiche portate avanti, dure, intense, dai familiari, nello specifico da una figlia di Borsellino, a dire anche i magistrati a Caltanissetta in 25 anni hanno portato avanti processi in cui le colpe sono evidenti, l'incapacità di arrivare a una verità, forse anche per questioni misteriose. E certo, scoprire nel 25ennale la strage di Via D'Amelio e dell'anno anche 25ennale la strage di Capaci contro Falcone e agenti di scorta, che Riina, o meglio la moglie di Riina, gestisce ancora un tesoro di famiglia da 1,5 milioni di euro, solo il patrimonio sequestrato ieri, fa capire che c'è qualcosa che veramente di, non dico irrisolvibile, ma chissà. Intanto Riina, che è intercettato, parla da boss, come raccontano tutti i giornali, in un colloquio proprio con Ninetta Bagarella, la moglie, nel carcere dice: io non mi pento, sono Salvatore Riina e resterò nella storia Salvatore Riina, questo è, mi diano pure 3.000 anni, questo è il motivo per cui si è arrivati alla non scarcerazione. Ma soprattutto mi colpisce Felice Cavallaro, pagina 9 del Corriere della Sera, a Corleone la moglie gestisce il tesoro di famiglia. Cioè, cosa si è scoperto nel sequestro di 1,5 milioni di patrimonio gestito da Ninetta Bagarella? Si è scoperto che, tra le altre cose, su 84 ettari di terreno ufficialmente intestati alla mensa arcivescovile di Monreale alla parrocchia Santa Maria del Rosario, in realtà gestiva tutto appunto lei, con sorpresa di Monsignor Pennisi, vescovo di Monreale, totalmente estraneo alla vicenda, nominato da Papa Francesco nella commissione per la scomunica di mafiosi e corrotti dopo che l'anno scorso aveva impedito le processioni con inchino davanti alla casa di Ninetta Bagarella. Ebbene, anche Monsignor Pennisi non poteva immaginare che sui terreni della chiesa, quando i boss locali litigavano sul pascolo delle greggi, per l'ultima parola si rivolgevano proprio alla signora Ninetta Bagarella. E ieri appunto è stato sequestrato un patrimonio di 1,5 milioni con 38 rapporti bancari, 3 società, la villa di Mazara del Vallo. Tutto questo quando si dice contrastare la mafia. Bah. Allora, siamo alla Carta Costa, articolo più inutile scovato sui giornali. Eccoci qua. C'è tutto un dibattito in rete, ma anche sul Giorno, la polemica social su Belen. Belen che ha fatto delle foto, ma accusano forse photoshoppata, perché c'è una foto in cui si dice: ma dov'è il seno sinistro? Sembra scomparso un seno. E invece lei, il dibattito è: no, ma forse non è scomparso, c'è un braccio che lo copre. E poi perché quella mano così lunga è stata photoshoppata? Ma Belen dice: no, no, è una questione di prospettiva. Photoshop o no? Cioè la domanda è: ma Belen quando fa le foto e le mette su Instagram, le photoshoppa? Ma chi se ne frega!